Ecco, se il cuoco che deve intervenire sulla cebada è un cuoco un po' bestia, allora è capace di mettere le sottilette al posto del formaggio e la Nutella al posto del miele amaro. Sarà anche un buon risultato per chi non conosce il linguaggio delle cebadas, per un americano di Kansas City. Certo è che da noi si potrebbe darla da mangiare a un ubriaco per farlo vomitare. E ora devo dare